Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. È severissimo il giudizio della Commissione dei diritti dei bambini dell'ONU sugli scandali pedofili. Al termine di un lungo confronto ha chiesto al Vaticano di rimuovere immediatamente tutti i sacerdoti colpevoli o semplicemente sospettati di abusi sessuali e di denunciarli alle autorità civili. Il rapporto della Commissione, che si è riunita a Ginevra ma che non ha poteri giuridici per imporre a uno Stato le proprie decisioni, critica la politica adottata dal Vaticano che, dice, ha permesso di coprire sistematicamente gli abusi e ha nascosto l'estensione dei crimini, preferendo difendere la propria reputazione. Il Vaticano avrebbe violato la Convenzione per i diritti dei minori e per questo gli viene chiesto di aprire gli archivi e di risarcire vittime e famiglie. Oggi vedo che è la notizia a cui viene data maggiore rilevanza sui giornali italiani. La sintesi è: l'ONU accusa il Vaticano. Cerchiamo di capire un po' meglio cosa sia accaduto realmente, cosa stia accadendo, quali sono i termini di questa vicenda. Innanzitutto si parla, essersi espressa la Commissione per i diritti per l'infanzia, una commissione di 18 esperti internazionali indipendenti, allo scopo di controllare che gli stati dell'ONU siano allineati con quelli che sono i dettami della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, che è stata approvata nell'89, che sono, delle indicazioni, perché non possono obbligare nessuno, nei quali bisogna tenere conto nei confronti dell'infanzia. Quanto se ne tiene conto, chi ne tiene conto, questo in questo momento è secondario di fronte al fatto che chiaramente chi compie un crimine di pedofilia non c'è convenzione che tenga, è oggettivamente un colpevole. La commissione appunto dell'ONU, di cui in Italia vedo che fa parte Margherita Parzi, leggo oggi la sua intervista sulla Stampa, che è una psicoterapeuta, un personaggio televisivo con la signora Capelli Rossi, dice: noi abbiamo detto che in realtà devono stare attenti ad alcune cose. Questo naturalmente ha un grande riflesso. Noi molte volte abbiamo parlato del dramma reale che ha attraversato la Chiesa negli ultimi anni, quando si è sollevata la coltre che copriva i crimini di natura sessuale che molte volte venivano compiuti da sacerdoti, e c'era una sorta di volontà di tenere tutto nascosto, e poi la cosa è venuta fuori. Ma perché l'ONU è intervenuto in maniera così decisa? Oppure questa commissione è realmente qualcosa di forte, di importante, determinante? Sono delle persone che esprimono un parere e i nostri giornali danno a questo molta eco. 800 24 00 24. La Santa Sede ha sempre anteposto la salvaguardia della propria reputazione e la protezione dei colpevoli all'interesse dei bambini. Al duro atto di accusa, il Vaticano risponde con un comunicato in cui ribadisce il suo impegno a difesa dei diritti dei bambini secondo i valori morali e religiosi offerti dalla dottrina cattolica, e annuncia che studierà minuziosamente i rilievi fatti. Ma quello che la Santa Sede non va giù è un altro aspetto del rapporto, che ritiene fortemente ideologico: l'accusa della Commissione al Vaticano di aver fomentato la violenza contro gay, lesbiche e transgender, la richiesta di unirsi alla lotta per depenalizzare l'omosessualità e l'invito a rivedere la propria posizione sull'aborto. Sì, perché quello che leggo su un altro giornale, sul Fatto Quotidiano, è che in realtà la reazione a questa presa di posizione del Vaticano è stata abbastanza decisa, ma non si sa quanto poi prudente. Monsignor Silvano Tomasi, che è capo delegazione della Santa Sede proprio presso questo comitato, a Radio Vaticana ha detto che tutto questo è perché nella stesura di questo documento c'è la pressione delle lobby omosessuali. Quindi entriamo in un terreno piuttosto spinoso. Ignazio Ingrao, buongiorno. Buongiorno a voi. Vaticanista di Panorama, ha pubblicato il libro Il Concilio Segreto, edizioni PM, l'abbiamo spesso sentito su queste vicende. Qual è la tua opinione personale, Ignazio, visto tu questa è una materia che conosci bene, hai trattato, di quello che questa mattina sembra appassionare la maggior parte della stampa italiana? Ma dobbiamo dire che con coraggio la Santa Sede ha ratificato questa convenzione sui diritti del bambino. Non è che la Santa Sede sia poi parte, abbia ratificato moltissime convenzioni, e quindi si è sottoposta poi al controllo appunto della commissione creata appositamente, e periodicamente ha dovuto fare questi rapporti. Io credo che il rapporto molto correttamente... Devo dire che gli unici stati che non l'hanno ratificata è la Somalia e gli Stati Uniti. Infatti. E devo dire che molto correttamente, perché qui bisogna leggerlo tutti i documenti che sono usciti poi da quel comitato, che sono tre, c'è una relazione generale più altri due, uno sulla pedopornografia e un altro sui bambini soldato. Allora, molto opportunamente le Nazioni Unite dicono che la Santa Sede e più in generale la Chiesa troppe volte ha anteposto l'interesse, diciamo, della struttura al bene del bambino, che invece è il cardine della Convenzione. Questo nel passato è avvenuto. Il problema di questo rapporto è che però non si dà sufficientemente conto dello sforzo che è stato fatto poi, soprattutto in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, ma soprattutto in questi ultimi mesi, diciamo, di lotta contro la pedofilia. Però è molto importante anche che le Nazioni Unite abbiano dato, diciamo, questo richiamo, perché poi è nelle chiese locali che molto spesso, diciamo, le linee guida nella lotta alla pedofilia non vengono attuate. Cioè, a livello centrale sì, il Papa, sia Papa Benedetto ma poi molto fortemente anche Papa Francesco sono intervenuti, però poi nelle chiese locali si continua a nascondere, si continua a trasferire i sacerdoti senza perseguirli. E l'ultimo punto che secondo me indebolisce però questo rapporto è, come è stato ricordato, che inserisce una serie di altri temi che in qualche modo c'entrano o solo lateralmente, cioè chiede poi un mutamento nella posizione della Chiesa su aborto, teoria del gender, salute riproduttiva, persino omosessualità, che obiettivamente, diciamo, poi alla fine rispetto a quello che è il perseguire il crimine della pedofilia sono, diciamo, un altro tema. Ecco. Vediamo bene, scusa Ignazio, mi sembra di capire che le Nazioni Unite sono giustamente espressi su attività criminose che sono state ammesse, riviste, revisionate soprattutto negli ultimi anni già da Ratzinger, ma soprattutto con l'ultimo Papa. Però in realtà quando entra poi in merito a questioni che sono regolamentate dalla dottrina della Chiesa, può piacere o non piacere, ma se uno è cristiano quello deve dire o quello deve sentire. È un po' difficile cambiare il punto di vista sull'aborto o sul gender. Uno può dire: ma sono arretrate queste posizioni, ma se sei credente quelle sono, o sbaglio? Secondo me questo indebolisce il rapporto, perché, ripeto, è opportuno richiamare, soprattutto per quello che riguarda un po' le chiese locali nelle diverse parti del mondo, un impegno ancora nella lotta alla pedofilia, perché tanto è stato fatto ma ancora tantissimo c'è da fare su questo fronte. Però poi inserire altri temi, appunto, che attengono più strettamente al magistero, alle posizioni della Chiesa, mi sembra francamente che indebolisca la forza e l'incisività di questo pronunciamento delle Nazioni Unite, insomma, del Comitato per i diritti dei bambini. Angela Camuso, buongiorno. Angela Camuso dovrebbe essere in linea, ma non ci sente in questo momento. Non ci sente. La stiamo chiamando, ci interessava avere il suo parere. Stiamo a Maria Elena. Allora, ascolta. Buongiorno, sono Maria Elena. Maria Elena. Chiamo dalla provincia di Genova. No, io sono cattolica apostolica romana, praticante, eccetera, e sono indignata per quello che è successo nella Chiesa, per carità, cose gravissime. Però sono anche indignata con l'ONU. Ma tutti i bambini che muoiono, per esempio, in Siria, non si preoccupa l'ONU di quelli? Io, guardi, sono stata in Siria l'anno prima che succedesse la guerra civile. Ho conosciuto la guida che mi accompagna, bravissima, con due bambini, che adesso è in Giordania, profuga in Giordania con la sua famiglia, che fa una vita terribile. Dico: ma l'ONU dei bambini della Siria non se ne preoccupa? Guardi, dei bambini... non ho strumento per dire se anche sui bambini della Siria è stato detto qualcosa, però adesso teniamoci su questo, che è l'argomento che mi sembra che ci stia a cuore, di capire esattamente i termini di questo documento, i termini della reazione, e se in realtà è un documento che possa essere anche, diciamo, infarcito di elementi che indeboliscono la presa di posizione così decisa che, appunto, ci è Ignazio in grado. Abbiamo recuperato Angela Camuso. Angela, buongiorno. Buongiorno. Giornalista dell'Unità, autrice del libro La Preda, Confessioni di una vittima, Castelvecchi, è la storia di Don Ruggero Conti, o perlomeno di una delle, diciamo, delle sue vittime. Sì, la storia di una delle sue vittime, poi è un libro che ricostruisce alla luce dei fatti giudiziari l'intera vicenda processuale, che è stata emblematica soprattutto di certa cultura dominante all'interno della storia. Un caso da manuale è stato. Sì, un caso da manuale, sia per il numero delle vittime, sia per la caratura del personaggio. Io voglio dire questo, sono praticamente d'accordo su tutto quello che ha detto il collega Ingrao. Una cosa volevo puntualizzare, in realtà lui appunto diceva questo rapporto però non tiene conto di quello che è stato fatto dalla Chiesa negli ultimi anni. Allora, quello che è stato fatto negli ultimi mesi forse è un po' troppo presto per dire, diciamo, per commentarne gli effetti. Per quanto riguarda quello che è stato fatto negli ultimi anni, come ha già detto Ignazio Ingrao, è vero che la Chiesa dal punto di vista delle direttive centrali ha dato delle, insomma, delle indicazioni forti e insomma delle linee guida molto forti. Beh, se ne è parlato, almeno se ne è parlato, esatto, c'è qualcosa. Se ne è parlato e già questo è un grandissimo passo in avanti, considerando che la Chiesa insomma è comunque vuol dire un'istituzione che si è sempre mossa in maniera estremamente lenta rispetto al cambiamento della società e soprattutto è un'istituzione che non è molto loquace, no? Su tutto ciò che riguarda temi soprattutto che vanno a investire la morale e che possono in qualche modo essere strumentalizzati. Detto questo, negli ultimi anni non è cambiato molto purtroppo, soprattutto in Italia, perché la Conferenza Episcopale Italiana è stata, diciamo, tra le più reazionarie rispetto invece a una volontà effettiva di cambiamento che si è registrata per esempio in altre conferenze episcopali, dove i vescovi si sono auto-obbligati per esempio a denunciare alle autorità ecclesiastiche. E il caso di Don Ruggero Conti, ma tanti altri casi simili, io per esempio mi sono occupata, ho fatto un'inchiesta per il Corriere della Sera tempo fa sul caso di una ragazzina che fu violentata da un sacerdote a Bolzano. Questo sacerdote è stato condannato, addirittura la diocesi è stata anche condannata in sede civile a risarcire la vittima, e questo sacerdote, siccome il reato nel momento in cui è arrivata la condanna è andato prescritto, attualmente fa il parroco e praticamente è il responsabile di un oratorio di un paesino lì vicino a Bolzano. Ecco, quindi insomma è incredibile, no? Se vogliamo, diciamo, c'è un allargamento diciamo del concetto di redenzione o di pentimento, che però non tiene al sicuro tutti. Ma sì, il concetto di redenzione e di pentimento da una parte, ma dall'altra c'è stato sempre fondamentalmente purtroppo un atteggiamento dominante, per cui ecco la faccia del prete, la faccia della Chiesa è stata sempre messa prima della tutela delle vittime, almeno per quanto riguarda quello che sono stati poi gli effettivi meccanismi all'interno della comunità cattolica e i suoi effetti. Quindi dal tuo punto di vista, al di là diciamo poi delle sbavature dottrinali, un ascoltatore che si chiama Stefano, già in onda, parlerà tra un istante, tu dici che in realtà la tirata delle orecchie dell'ONU, comunque salutare, riporta alle responsabilità le persone che al di là delle direttive del governo centrale della Chiesa, poi a livello locale fanno sempre come si faceva una volta, ci si mette una bella coperta sopra, si trasferisce il prete e continua naturalmente a essere a rischio il popolo delle pecorelle, soprattutto le più indifese. Fermi un attimo, informazione del traffico, ci sentiamo tra un istante. Melog, cronache meridiane. Dopo l'operazione Trasparenza e Pulizia inizia l'operazione Protezione e Prevenzione. Il Papa prende in mano il dossier pedofilia, forse uno dei temi più delicati da risolvere nella nuova Chiesa che Papa Francesco intende ridisegnare, e crea una specifica commissione per la protezione dei fanciulli vittime di abusi sessuali da parte di preti pedofili. Una commissione decisa da Papa Bergoglio su proposta del Consiglio degli 8 Cardinali riuniti in questi giorni in Vaticano, che dovrà offrire consiglio, prevenzione e indagine. La commissione, che sarà formata da religiosi... Questa è una cronaca che abbiamo preso in internet per fatti che riguardano il mese di dicembre. Allora ci fu questa presa di posizione precedente a quello che, di cui stiamo discutendo oggi. Leggo qualche sms sul relativismo delle accuse, diciamo, il motivo più ricorrente degli interventi. Se posso dare un'analisi brevissima, statistica, rispetto alle domande che ci vengono fatte. Siamo alle solite, perché si condanna fanno gli utenti quando si potrebbero chiudere i siti porno in internet, non so cosa c'entri. Il moralismo è intollerabile quando va a colpire l'utente finale, cioè l'utente sarebbe l'utilizzatore finale, alla faccia della libertà sbandierata alla rete. Non ho capito esattamente cosa voglia dire questo. Comunque, poi dice un altro ascoltatore: vorrei sapere se esistono altri rapporti ONU in merito a altri stati teocratici dove vige la pena di morte per gli omosessuali, dove il lavoro minorile è la normalità, e come hanno reagito questi. Probabilmente sarà così. Ascoltatore Stefano, buongiorno. Sì. Prima di tutto le premetto, io sono un cattolico molto pietido, ma al di là di questo non sopporto l'ONU quando fa il moralista, considerando come si è comportato davanti a certi genocidi che ha girato la faccia dall'altra parte. Le dico, sì, ho capito, ma adesso in questo momento non è fare il moralista, si parla di crimini nei confronti di minori, non è moralismo. Allora, non è che dicono che è brutto, dicono è un crimine, non è dicono è brutto, no, perché fa male, perché piange l'angioletto. No, il discorso è questo, ma non è un crimine nell'intibolazione, per esempio. Sì, assolutamente, verissimo, ne abbiamo parlato più volte, sì, ma non è che quello assolve di non parlare di quello. Nessuno ha alzato gli scudi contro questa pratica. Sì, ma scusa, se lei torna a casa e mena la moglie e uno dice l'arresta, lei può dire ma tanto la menano anche negli stati islamici. Non sì. Vale, è la stessa cosa. Non allarghiamo sempre il quadro. Io sono qui per restringere l'obiettivo e cercare di capire una briciola in più rispetto a quella che è la vulgata rispetto a questa notizia. Ignazio Ingrao di Panorama. Scusa Ignazio, ma l'ONU chiede aprite gli archivi. Ma cosa c'è in questi fantomatici archivi? Cosa dovrebbe fare la Chiesa? Pubblicare l'elenco del proprio diciamo attività interna di segnalazione di questi casi? Guarda, in realtà diciamo ogni anno viene pubblicato l'elenco dei processi per i delicta graviora, tra cui ci sono quelli per i crimini di pedofilia, presso la Congregazione della Dottrina della Fede. Quindi quelli sono pubblici, così come sono pubblici l'elenco, diciamo il numero dei sacerdoti che poi sono ridotti allo stato laicale, che è la massima pena diciamo per questi poi delicta graviora. Il problema ritorna poi però nella realtà delle chiese locali. Il fatto di Bolzano che citava Angela Camuso. Quanti sono poi i casi che effettivamente vengono seguiti e rinviati dalle conferenze episcopali alla Congregazione per la Dottrina della Fede, così come prevedono le norme, e poi come vengono seguiti via via questi preti dopo che hanno magari subito una sanzione e poi chiedono di essere reimmessi nell'attività pastorale e via dicendo. Ecco, è su questo profilo che c'è la zona grigia, così come anche è stato ricordato, cioè nei paesi anglosassoni abbiamo visto c'è stata una presa di coscienza molto forte, anche perché c'è una legislazione che poi ha duramente colpito anche le diocesi. Anche hanno dovuto pagare un sacco di soldi di risarcimento, fra l'altro. Infatti nei paesi di cultura latina, tra cui il nostro, la presa di coscienza sul problema è stata molto più lenta. Si è fatto finta di non vedere, oppure si è detto che non toccava questo il nostro paese. Poi abbiamo scoperto che in una delle parrocchie del presidente della Conferenza Episcopale Italiana a Genova sono accaduti dei fatti molto gravi, consumo di droghe, abusi sessuali e via dicendo. Ecco, io credo che l'ONU sia il migliore alleato di Papa Francesco quando chiede trasparenza, quando chiede impegno nella pulizia e quando dice di allontanare i preti appunto che danno. Io vedo anche un altro punto di questo rapporto che è stato messo in secondo piano rispetto al clamore dei titoli, che però è... entra anche qui in merito alla gestione delle gerarchie all'interno della Chiesa. Dice, preoccupa, questo comunicato dice, esprime preoccupazione per la sorte degli adolescenti reclutati dalla Legione di Cristo, ma anche da altre istituzioni cattoliche, che vengono separati dalle loro famiglie, vengono isolati dal mondo esterno. È una prassi che accade negli ordini, nelle congregazioni, nelle grandi organizzazioni della Chiesa, che a un certo punto dei ragazzi seguono la loro strada e la famiglia non ne sappia più nulla. Può mettere l'ONU anche in questo, diciamo, naso, o fa parte della capacità, autonomia di gestione delle proprie pecorelle? Ma francamente mi sembra un'altra caduta di stile lì del rapporto, perché si ridurre il problema del legionario di Cristo, che poi ricordiamo che Benedetto XVI, appena eletto, ha allontanato il fondatore, completamente ha commissariato la congregazione. Ecco, ridurre il problema del legionario di Cristo al fatto che i ragazzi venivano messi nei seminari, allontanati dalle famiglie, l'ho trovato un po' singolare, così come quando in un altro passaggio del rapporto sul problema delle punizioni corporali invita a una nuova interpretazione della Bibbia. Ecco, io non so se... Cioè di togliere il cilicio e diciamo le mortificazioni fisiche. Ma rispetto all'interpretazione diciamo della lettera, diciamo della parola biblica sul tema diciamo delle punizioni dei fanciulli, e quindi sollecitare una interpretazione diversa della Bibbia. Ecco, io non so se oggettivamente le Nazioni Unite si possono spingere fino a quel punto e se sia utile farlo. Ecco, il problema però sai qual è, Ignazio? Quando ci si espone molto al secolo, si entra in dibattito, in dialogo con il potere secolare o con il mondo laico, poi è chiaro, questi ti vengono a guardare sotto il tappeto tutto. Finché rimaneva un'istituzione chiusa nella sua sacralità, poteva comunque gestire queste cose. Oggi è abbastanza logico che questo possa avvenire, poi ognuno prende il suo punto di vista. Angela Camuso. Gianluca, no, io per rispondere un po' a tutte le domande, anche agli interventi di alcuni degli ascoltatori, oggi sul Fatto Quotidiano c'è un mio articolo che racconta la storia di Don Ruggero Conti, e se uno va a leggere come è stata gestita questa storia dalla Chiesa, si rende conto di quanto il rapporto ONU sia assolutamente rispondente a verità. Tra l'altro era un prete amatissimo, l'hanno tutti difeso, i suoi parrocchiani. Allora, oltretutto, questo prete è un prete amatissimo, carismatico, è idolatrato nei palazzi del potere, nominato dal sindaco dall'allora futura sindaca Lemando come suo portavoce per la politica alle famiglie, viene arrestato soltanto dopo la denuncia di un altro prete, il suo vice, che per tanto ardire viene allontanato dalla parrocchia dal vescovo, il quale vescovo aveva ricevuto segnalazioni dai parrocchiani, addirittura da uno stesso ragazzo, e ritiene di non dover neppure informare la Santa Sede di quanto stava succedendo. Quindi Angela Camuso ci lascia un punto interrogativo aperto. Guardate che se l'ONU sbatte i piedi, è giusto che si prendano le distanze, si facciano il distinguo, ma non è proprio del tutto sbagliato, del tutto inutile. A domani.